La politica alla prova. La politica alla prova, buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. E la politica si occupa di economia oggi perché ovviamente parliamo dell'affare Telecom, ma soprattutto dal punto di vista politico, perché tutti i partiti chiedono che il governo intervenga in aula. Insomma, Enrico Letta deve spiegare cosa sta succedendo. Dal PD al PDL la voce è unanime. Roberto Speranza, capogruppo democratico alla Camera, dice che le notizie che arrivano sul caso sono molto preoccupanti. La mancanza di dettaglio alimenta le preoccupazioni invece per Renato Brunetta, che anche lui chiede l'intervento del Premier, e Beppe Grillo dice: il governo perché non dirotta i miliardi destinati alla TAV per bloccare la vendita a Telefonica con l'acquisto della sua quota? Allora, subito potete inviarci i vostri sms al 349-238-6666, ma intanto iniziamo con l'ex ministro delle comunicazioni Paolo Gentiloni, che ci spiega cosa potrebbe fare il governo proprio su Telecom, ma anche parla dello scontro all'interno del Partito Democratico. Sentiamo Gentiloni. Ma soprattutto è molto grave che non ci sia l'esercizio dei poteri speciali da parte del governo su una cosa che è un valore pubblico irrinunciabile, che è l'accesso a internet. Quindi, al di là di italiani o spagnoli, serve che il governo eserciti quello che in gergo si chiama golden power. Quindi che cosa chiedete? Che il governo venga in aula a riferire? Venga in aula a riferire, che si acceleri sullo scorporo della rete e che si firmi il decreto attuativo che dà questi poteri speciali di regolazione al governo. Invece, per quanto riguarda il PD, è sempre scontro Epifani-Renzi, Renzi-segreteria. Ah, mi sembra che ci siano ormai delle certezze sulle date, sulle procedure, e quindi che avremo nelle prossime settimane non uno scontro procedurale, per fortuna, ma un confronto di idee tra i diversi candidati. Ma l'8 dicembre Renzi vincerà, secondo lei? Io faccio il tifo, comunque l'importante è che la partita cominci e che si smetta di fare inutili bagarre per cercare di rinviarla. E questo, ricordiamo, era l'ex ministro delle comunicazioni Paolo Gentiloni, nonché renziano, quindi ovviamente lui auspica che Renzi vinca le primarie dell'8 dicembre. Ha da poco parlato invece l'altro candidato, Gianni Cuperlo, che dice: io sono d'accordo a prescindere, sono ecumenico. Insomma, l'accordo tra i candidati, no? Si parla un pochino di cercare di smussare i toni all'interno del Partito Democratico. Si spengono invece le fibrillazioni del PDL sull'aumento dell'IVA, sul possibile aumento delle tasse. Il Premier Enrico Letta assicura che presto ci sarà un forte taglio delle tasse, quelle sul lavoro, mentre il Vice Premier Angelino Alfano è salito al colle più alto, cioè al Quirinale, per un colloquio con il Capo dello Stato Giorgio Napolitano sulla continuità di governo. Insomma, è pressing del Quirinale per arrivare alla definizione della legge di stabilità. Di questo e dell'affare Telecom abbiamo parlato con un deputato PDL, con Antonio Leone. Sentiamo. C'è qualcosa che potrebbe preoccuparci, ma è limitata, cosa dovrebbe essere limitata. Poi vedremo, non sappiamo gli esiti dei colloqui, degli incontri, ma sicuramente si chiarirà la cosa. Senta, nel PDL è rientrata un po' questa battaglia sull'IVA, avete raggiunto l'accordo, un rinvio, anche Letta agli Stati Uniti dice la coalizione andrà avanti, dobbiamo fare legge di stabilità, tutti quanti ci dobbiamo prendere un impegno. Sì, è rientrata perché si è chiesto anche attraverso il Capo dello Stato senso di responsabilità in un momento in cui piano piano si sta tentando di uscire dalla crisi, però se sono rose fioriranno. Ma il fatto che Angelino Alfano abbia incontrato il Capo dello Stato? È anche quello un elemento per le cose che stavo dicendo prima. Sicuramente questo deve fare intendere una cosa, che il PDL non è certo quel partito che vuole destabilizzare il governo e quindi l'Italia agli occhi degli investitori stranieri e agli occhi del resto dell'Europa. Ma se si deve aumentare l'IVA perché si è tolto l'IMU, allora non era meglio evitare di togliere l'IMU? Il problema, io l'ho detto sin dall'inizio, non va legata nella maniera più assoluta, né prima e né neanche adesso che si è giunti forse a una soluzione. Non va legato perché il senso dell'eliminazione dell'IMU è legata alla ripresa economica, è legata a salvare quel comparto che ha sempre dato all'Italia qualche sicurezza, mi riferisco all'edilizia e a tutto quello che ruota attorno all'edilizia. Il resto è slegato e deve essere legato invece alla ripresa del mercato interno. Allora, molti gli sms sulla Fair Telecom e soprattutto sulla politica, e tutte le tangenti intascate per la TAV le restituiscono, chiede Massimo. Francesco vuole la trasmissione di Matteo, dice che la nostra è un po' inutile, insomma la politica è un po' inutile, questo è. Che banda di cialtroni, dice un radioascoltatore, riguarda i capitani coraggiosi di Dalemiana memoria. Poi Grillo ha ragione, vendiamo per risparmiare la TAV, e un ulteriore disastro italiano, hanno già un buco nella montagna di Val di Susa. Chiediamo ai vari costruttori le tangenti che hanno pagato. Poi c'è un sms lunghissimo che non riesco a leggere. Altra questione è però l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Un disegno di legge in discussione nella Commissione Affari Costituzionali della Camera, è rottura nella maggioranza, non c'è l'accordo, irrisolti i nodi che dividono PD e PDL, soprattutto sul tetto alle donazioni dei privati. Un cavallo, quello dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, da sempre del Movimento 5 Stelle, e su questo e su Telecom abbiamo sentito Laura Castelli. L'affare Telecom è stato per anni oggetto di compravendita di una e l'altra parte politica, addirittura in certi anni è stato il motivo e uno strumento per entrare in Europa, per cui ancora una volta assistiamo a un uso scellerato della finanza pubblica fatta per acquisire una società che dovrebbe essere pubblica, ma fatta chiaramente nel modo sbagliato. Ancora una volta usiamo i fondi male e li usiamo per fare gli interessi di pochi. Avete paura che dopo Telecom tocchi ad Alitalia? Il caso Alitalia è un altro di quei casi da mettersi le mani nei capelli. Questi governi che si sono susseguiti hanno dimostrato che Alitalia non è una cosa che interessa, non è un'azienda che deve rimanere pubblica, non è un interesse pubblico, per cui se ci facessero governare questo paese magari potremmo spiegargli come si fa a riacquistare dei punti fondamentali e dei punti cruciali dell'imprenditoria e farli tornare pubbliche. Come Telecom all'Italia? Come Telecom all'Italia o i servizi essenziali, l'acqua per esempio. Senta, ma in Commissione Affari Costituzionali sembra che ci sia stallo sul finanziamento pubblico ai partiti, sul disegno di legge per il quale il Movimento 5 Stelle si è tanto speso. Sì, sono diversi mesi ormai che tutto questo lavoro è bloccato, nasce chiaramente dalla bugia di questo governo che dice togliamo il finanziamento pubblico ai partiti, mentre poi insomma cambia solo nome e lo modifica. Sono fermi perché non riescono a trovare un accordo, ma d'altronde questa è la storia che stiamo vivendo in questi 6 mesi, ogni cosa si blocca perché PD e PDL non trovano l'accordo. E quindi continueremo a parlare di Telecom, sicuramente continuerà Sebastiano Barisoni tra poco in onda in Focus Economia. Per quanto mi riguarda un saluto da Montecitorio, da Elisabetta Fiorito.